Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Gesù, aiutami! Preghiera potente! Gesù mi salverà! Fede spaziale! Quello è troppo cattivo! Abbraccio d'amore! Mi sento un po' in colpa. Perdona! Anche se è superfluo fare premesse, vi assicuro non c'è nessun intento denigratorio, irrisorio, satirico in quello che voglio dire questa mattina. No, questa mattina voglio occuparmi seriamente, concretamente della grande novità nel campo della comunicazione che è stata inaugurata e viene potentemente portata avanti da Papa Francesco. Cosa vi ha colpito di Papa Francesco? Quale immagine avete nella vostra mente di Papa Francesco? Questo straordinario Papa che ha sovvertito ogni nostra tremebonda incertezza soltanto in pochissimi mesi. Noi abbiamo fatto un'infinità di trasmissioni a questi microfoni nell'ultimo anno sulla crisi della Chiesa, sui drammi, sulla mancanza di appeal, sulla grazia che non si sentiva più soffiare dalle parti del colonnato di San Pietro. Improvvisamente abbiamo un Papa che assomiglia a un supereroe, un Papa fantastico, un Papa che ogni giorno si inventa una maniera nuova per farci sentire che esiste, che è vicino a noi. Questa mattina leggo sul Corriere della Sera del Papa che si traveste e esce di notte, va a cercare i poveri. La voce non è proprio del tutto confermata, ma si immagina, lo dice l'arcivescovo polacco, che è il grande lemosiniere che esce ogni notte con, immagino, con la bisaccia, con i dobloni d'oro per darli ai poveretti, un po' come Super Chuck, qualcosa del genere. Beh, qualche volta pare che anche il Papa, anche lui vestito, travestito, simulato, non si sa da cosa, vada di notte. Ma poi il Papa ne fa uno al giorno. Il Papa va a trovare il Presidente della Repubblica accucciato nel sedile posteriore di una macchinetta, invece che una super papa mobile con gli schermi radar e con i mitraglieri atomici e con gli spara aureole incrociate. No, va con una macchinetta tranquilla, va lì e scende. Il Papa che scende dalla scaletta dell'aereo con la sua valigetta, con il portatiara, come fosse, ne so, un ragioniere che si porta dietro la calcolatrice, come fosse un geometra che si porta la fettuccia metrica e via dicendo. Il Papa gira con la sua tiara, va a dire messa come qualsiasi prete. Il Papa che telefona a chiunque, il Papa che poi ha lanciato poche settimane fa a San Pietro una fantastica idea di marketing, il gadget spirituale. Vorrei adesso consigliarvi una medicina, ma qualcuno pensa il Papa fa il farmacista adesso. È una medicina speciale per concretizzare i frutti dell'anno della fede, che ci volge al termine, ma è una medicina di 59 granelli intracordiali. Si tratta di una medicina spirituale chiamata misericordina, una scatolina di 59 granelli intracordiali. In questa fantastico, perché un'idea, quante ne girano di false medicine, sono di solito tutte scatolette che in realtà non contengono nulla, maniera per lanciare messaggi d'amore, messaggi denigratori, non, nemmeno le sto a elencare, capito? Ma ogni tanto c'è qualche esperto di marketing o di comunicazione, si inventa una grande idea e fa la scatoletta con la medicina e dice che ne so, serve a pubblicizzare un prodotto, il clone dell'aspirina o di qualche altro, delle supposte Novalgina, non so esattamente di cosa dice, però in realtà ci mette dietro il marchio nascosto. Sì, il Papa fa esattamente la stessa cosa, distribuisce a Piazza San Pietro una medicina e dentro c'è la coroncina del rosario. Un Papa fantastico, un Papa che telefona a chiunque, il Papa che chiama il padre costretto al lavoro domenicale. Ma pensate, ognuno di noi ogni mattina sa che potrebbe chiamargli il Papa improvvisamente per qualunque ragione, il Papa si accorge che c'è qualcuno a cui può chiamare, alza il telefono e chiama, e vi sembra cosa da poco. Avete mandato una mail al Papa, sì. Oggi ti ha telefonato, cosa è successo? Cosa ti ha detto? Allora, mi ha detto, come stai Michael, avrei il piacere di incontrarti, e poi ha detto, prega per me e prega per te, e poi ha detto che mi interessa vedermi veramente. Come hai fatto a essere sicuro che fosse il Papa? Con l'accento, l'argentino lo sento. Quanto hai parlato col Papa? 10 minuti. Jorge Mario Bergoglio è uno di noi. Viaggia in metro, arriva a dir messa in bicicletta, si appassiona per il calcio e si appassiona alle sorti di... Certo, ormai fra un po' faranno un club, potrebbero fare una squadra di calcio, potrebbero andare a fare le settimane bianche insieme. Tutti quelli a cui ha telefonato il Papa non sono più casi isolati. A chiunque può accadere, tanto ci sono un'infinità di imitatori che fanno la voce del Papa, fanno degli scherzi atroci a personaggi che si sentono chiamare dal Papa e si meravigliano, non tanto perché chiami loro il Papa, perché sono personaggi noti, dice, come mai chiama me il Papa, non sono un disgraziato qualunque? Beh, tutto questo vuol dire che è poco. Voi che vi lamentavate del Papa tedesco, del Papa teologo, del Papa distante, del Papa che non emanava quella sorta di calore che voi vi aspettavate, che sentite emanare Dal parroco sudato col megafono che porta le vecchie in pellegrinaggio e via dicendo, beh, adesso ce l'avete. Di cosa vi lamentate? 800240024. Stefano. Pronto, buongiorno. Cosa l'ha colpita di quest'ultimo Papa, di tutte le immagini possibili e immaginabili? Io forse sarò contraddittorio, però tutti amano questo Papa perché in effetti è un Papa che non rimproverà mai nessuno. Insomma, è come quel genitore che non rimproverà mai il figlio. Mica tanto. Sta facendo all'interno delle gerarchie, lo IOR, facendo dei tagliamenti di teste, sta segando mezzo establishment precedente, quindi sta facendo delle operazioni, però all'esterno è simpatico, è sorridente. Sì, però non sembra, non mette mai le persone, i fedeli sulla buona strada. Un esempio, una volta sentivo che parlava il caso dell'omosessualità. Lui, essendo un cristiano, rappresentando Gesù, dovrebbe condannare, come condanna la Bibbia, l'omosessualità. Ma sempre lì va a finire, ma c'è il chiodo fisso, ma di tutte le cose del mondo l'unico problema vi ponete. Non è che voglio, adesso ci sono trasmissioni che rappresentano quotidianamente in maniera molto più capillare questo problema. Può essere questo il problema, scusi. Stiamo parlando di tutto, ritorna sugli omosessuali e condanna gli omosessuali. Si aprirà il cielo, verrà fuori un fulmine con una mano divina e come tu oserai guardare, posare il tuo sguardo sulle natiche del tuo vicino, diventerai cenere. Le sta bene così? Si accontenti. Giacomo. Pronto? Sì, abbassi la radio, sennò sembra che c'è un effetto divino, sembra che... Sì, ho abbassato. Niente, io volevo intervenire dicendo che, cioè, voglio dire, non è un caso che il Papa Francesco sia stato eletto, non so come si dica, perché il momento storico della Chiesa appunto era nero, quindi avevano bisogno di una figura abbastanza popolare per riprendersi. Credo che le elezioni non siano state così naturali, cioè è stato eletto per un fine ben preciso. Quindi lei, aspetta, fermi là, quella cosa mi interessa. C'è stato un progetto preciso di marketing nell'elezione di questo Papa, esatto. Tanto che l'altro non è che l'hanno eliminato, l'hanno fatto morire, l'altro ancora c'è, sta lì accanto. Dal punto di vista teologico, voglio dire, non sta in cielo né in terra. Vabbè, tanto, scusi, dal punto di vista teologico, la scrivono gli uomini le leggi teologiche, non è che lo so. Gli uomini sovrascrivono quello che vogliono, può essere che domani se ne inventano un'altra e viene il terzo Papa e va bene lo stesso. Sì, facciamo la panchina lunga, diciamo. Vabbè, comunque vedo che è argomento di discussione. Bruno Ballardini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, Bruno Ballardini, so che tu aspettavi che ti chiamassi, perché abbiamo più volte parlato con te della strategia di marketing e della comunicazione strategica della Chiesa che era sbagliata. Tu hai scritto un libro, Gesù e i saldi di fine stagione, perché la Chiesa non vende più, PM Edizioni. Poi avevi scritto La morte e la pubblicità, ti sei occupato di queste cose. Ma secondo te, adesso, hanno fatto scempio e saccheggio del tuo libro, quindi stanno vendendo, oppure non è questa nemmeno la strategia? No, vabbè, ci sono delle coincidenze che capitano per il fatto che con un po' di buon senso si può arrivare a certe conclusioni un po' tutti quanti. Però sembrava impossibile, ti ricordi? 2 anni fa ne parlavamo, sembrava una cosa che impossibile, sbagliavano tutto, era tutto sbagliato, vincevano i predicatori perché erano molto più figli, facevano quello che fa il Papa, andavano in giro, bacia al lebbroso, bacia al deturpato, c'è un casting di volti deturpati perché il Papa deve baciare i più deturpati possibili, è proprio perfetto come operazione d'immagine. Assolutamente, il discorso è questo, che Bergoglio si pone come curatore fallimentare, si comporta in un modo incredibile perché come curatore affianca naturalmente come migliori curatori fallimentari il precedente amministratore delegato e però ha già messo mano alle riforme e poi è un uomo di comunicazione. Ora, che Ratzinger avesse fallito era chiaro fin dall'inizio perché non era il Papa giusto come molti hanno osservato, non doveva nemmeno essere eletto, secondo alcuni vaticanisti era capitato quasi per caso. È stato uno sbaglio, diciamo. È stato uno sbaglio. Dopodiché... Bruno, diamo per scontato la nostra lettura che parte da un punto di vista laico, perché credente dovrebbe dire come sbaglio, che è scritto in cielo e c'è un'ispirazione divina. Noi diciamo, però, da un punto di vista, osserviamo l'organizzazione della Chiesa come un'azienda, con un esperto di comunicazione che è Ballardini, era stato uno sbaglio. Però le dimissioni sono un fatto, cioè... Parliamo in termini laici, queste le dimissioni sono comunque un fallimento. Assolutamente. Il primo ad averlo annunciato è stato Hans Küng, con una lettera in 10 punti spiegava il fallimento di Ratzinger. Ora, il discorso è che di fronte a una cosa... Papa che si rispetti deve morire per dar spazio a un altro. Sì. O da solo o con aiuto, ma deve succedere questo. Il discorso è questo, che adesso bisogna riconoscere che era la crisi epocale mai accaduta in secoli della Chiesa, e c'è in gioco la reputazione non della Chiesa cattolica ma di tutto il cristianesimo, perché se la Chiesa adesso sprofondasse nel baratro, come era quasi evidente all'epoca di Ratzinger, si porta dietro anche la reputazione di tutto il cristianesimo, perché non esiste solo il cattolicesimo. Certo. Questo è il fatto. Poi, onestamente, proprio da laico a laico, con grande rispetto per tutti, però devo dire, questo Papa è impossibile che ti stia antipatico, che non ti faccia pensare finalmente a quello che ci voleva. Mi è molto simpatico, diciamo. Anche insomma, la notizia di oggi che lui va di nascosto di notte a fare l'elemosina, insomma, ecco, questa va trattata, nel senso che in realtà questa funzione esiste in Vaticano dal 1190-1200 circa, no? Esiste un ufficio per le elemosine. Ora, il fatto che si sia sempre aggirato non dico il Papa, perché il Papa l'ha fatto sapere soltanto, cioè è un grande comunicatore per questo, cioè queste elemosine che vengono fatte con i soldi delle benedizioni sono sempre state fatte. La differenza è che adesso lui lo fa sapere, è un grandissimo comunicatore. Cioè evidenzia nel bilancio le voci che in realtà possono dare una forza al brand piuttosto che le altre. Dice, noi andiamo ogni notte con il sacchettino, lo immagino, con le bisacce, con i dobloni, a darle ai poveri. Cosa che nessuno sapeva, che però oggi tutti sanno. Anzi, nell'allucinazione generale di questa immagine, tu pensa al Papa travestito dietro al cardinale polacco che porta lui magari la bisaccia con, non so adesso... i generi di conforto, il tè caldo, il brodino, le babbucce di lana, i giocattoli per i bambini, una sorta di Papa Babbo Natale. Fermiamoci un istante, fra un istante riprendiamo con Bruno Ballardini. Melog, cronache meridiane. Ragazzi, sono appena arrivate. Siamo ancora stanche, abbiamo passato quasi una nottata fuori dalle edicole per comprare queste nuovissime figurine. Sono di Papa Francesco, siamo ancora eccitati, volevamo aprirla appena usciti dall'edicola. Cominciamo, teniamo la più fortunata. Ecco, io ne ho preso un poker di Francesco perché ha detto... Io invece avevo solo 60 centesimi appresso, quindi mi sono accontentato. Ero troppo eccitato. Ok, apriamo il primo pacchetto, vediamo un po' come sono, perché soprattutto non sappiamo nemmeno come siano fatte queste. Oh mio Dio, che belle. George Mario Bergoglio, il fratello Oscar. Il Papa quando era piccolo. E qui invece abbiamo Bergoglio al club calcistico di non so quale squadra. Qui abbiamo un pezzo di Osvaldo Paniccia. Questi sono i due ragazzini che si fanno un video su YouTube dopo essere andati a comprare le figurine del Papa. Sì, perché fra i tanti gadget papali c'è un meraviglioso album delle figurine, come quelli delle Panini, dei calciatori o delle grandi raccolte della storia che facciamo noi da ragazzi. Ci sono addirittura le figurine fustellate per fare la pagina intera, gli scudetti, le figurine valide. È stupendo, tutta la storia del Papa in figurine. Ciao a tutti ragazzi, è sabato, diluvia veramente tanto qua. Questa giornata brutta, ebbene sì, dovevo uscire a comprare Francesco, le figurine, perché chi è che non vuole fare la collezione delle figurine del Papa Francesco con la croce non d'oro? Cioè adesso questi due ragazzetti fanno un po' i paraculetti, perché è chiaro che stanno prendendoci in giro, però ci hanno in mano delle figurine col Papa, ci hanno in mano quelle figurine che con un simbolo e con un marchio, se vogliamo parlarne proprio in termini aziendali pubblicitari, che comunque loro ce l'hanno, l'hanno comperata, ce l'hanno sul tavolo, ci hanno fatto il video, il loro video è stato trasmesso dalla grande Radio 24, quindi comunque lo scopo è stato ottenuto. Bruno Ballardini, esperto in marketing e comunicazione, ha scritto Gesù e saldi di fine stagione. Perché la Chiesa non vende più, PM Edizioni l'ha scritto qualche anno fa, la Chiesa pare che stia vendendo, anche se cominciando dalle figurine. Le figurine sono un mezzo molto interessante perché permettono una capillarità incredibile a basso costo. In più fanno riportare intere generazioni all'epoca in cui si andava a prendere la bustina per vedere se c'erano le figurine che aspettavamo per completare l'album. Per scambiarle. Per cambiarle, per i doppioni, no? No, pensa, ce lo manca con il Papa, tu ce l'hai il fratello del Papa, no mannaggia, c'ho la fidanzatina. Ah, vedi, bello, quello non ce l'avevo. E quindi poi alla fine in realtà questo permetteva di rimettere in giro l'immagine della marca, perché la prima cosa era arrivare subito. Lui arriva subito, ma è comunicatore, ma a un livello superiore a quello di altri papi, perché mentre ad esempio Wojtyła la buttava in caciara, cioè era uno showman. Lui fa comunicazione strategica, perché la misericordina, per esempio, che cos'è? Non è marketing, è una ironizzazione sul marketing, cioè lui è a un livello superiore. È un doppio salto mortale che nessun papa aveva fatto. Esattamente. E questo è modernissimo, devo dire. Sì, naturalmente scavalca tutto in un colpo solo, addirittura riesce a prendere atto, far capire che sa benissimo che la Chiesa ha sempre fatto marketing, sia pure inconsapevolmente, ma poi nello stesso tempo ironizza su questa cosa e ci riporta all'epoca in cui il parroco scherzava coi fedeli, cioè lui si non dico traveste, ma diciamo in persona il buon vecchio parroco di campagna. Ma scusa Bruno, a questo punto, visto che mi ricordavo quello che tu avevi detto, così lui riesce a dare delle bastonate, sì, ai buddisti, agli spiritualisti, ai metempsichisti, ai fantacazzisti, cioè tutte le grandi sette che oggi mischiavano e minavano alla base la credibilità e il consenso popolare della Chiesa? Assolutamente sì, cioè lui utilizza sul serio, consapevolmente, la parte finale del marketing, quella più d'avanguardia, di cui peraltro sto anche scrivendo. Beh, questa è materia tua, se non scrivi un altro libro su questo Papa. Purtroppo mi tocca. Ma cosa gli manca? Gli manca un miracolo a questo punto. Ci ho già provato con un ragazzo sulla sedia a rotelle, gli manca il miracolo. Credo che non utilizzerà ancora queste cose, nel senso che lui utilizza tutte le leve tradizionali per poi superarle, quindi qui ci sarà il superamento del marketing alla fine, ma lui opera tutte le riforme prima di riunire eventualmente un consiglio d'amministrazione dove non si deciderà, si prenderà soltanto atto di quello che è stato fatto. Senti, con questo cosa guadagna lui? Abbassa anche il livello di guardia di tutti i più accaniti ideologi dell'anticristianesimo? Bene o male sono tutti ammanziti, non c'hanno nulla da dire. Scalfari si è buttato a terra e sembra che sta aspettando da un momento all'altro che gli mettano la tonaca bianca e facciano anche lui santo. Odifreddi pure, anche lui vedo che sta negoziando. L'ha spiazzati? Bisogna ricordare che lui è un gesuita e quindi ragiona in termini militari, è un militare. La prima cosa che ha fatto è stata una sortita in campo nemico, è andato direttamente da Scalfari, ex direttore storico del principale quotidiano laico, e si è messo a parlare, a dialogare tranquillamente, mentre ad esempio papi precedenti avevano un atteggiamento di chiusura totale. Vabbè, equivale a 5 colpi di Tarantino che spezzano il cuore. Assolutamente. È fregato in questo momento, è assolutamente ridicolo il principe del pensiero laico che è così steso a tappetino di fronte a un papa che semplicemente ha detto due parole. Paolo c'è? Eccomi qua. Cosa la pensa? Come la pensa su questo papa? Ma io penso che sia un uomo comune che si è trovato a ricoprire una carica importantissima. E perché degli altri papi non si è mai posto il problema che fossero uomini comuni? È perché secondo me gli altri papi, rivestendo la carica di papa, hanno smesso di essere uomini di tutti i giorni. Mentre questo secondo me ha messo come priorità il fatto di essere un uomo di tutti i giorni, che vuole parlare con il suo popolo, che vuole stare in mezzo alla sua gente, per capire quali sono i problemi della gente, cioè della gente comune, ma soprattutto, secondo me, questo è il mio punto di vista, vuole essere di specchietto anche per tutte quelle istituzioni dove se non hanno la macchina d'oro, se non hanno il vestito d'oro, se non sono circondati da 13.000 segretari, 14.000 portaborse e 16.000 portaacqua, non sono infatti importanti. Bravo, poi se poi dentro i palazzi, i sacri palazzi, c'è la piscina foderata d'oro, chi lo sa, ma che ci importa, l'importante è quello che si vede. Grazie Ballardini, grazie Fabrizio Intonti e Valerio Rocchetti, ci sentiamo lunedì.